Sì, Luigi Zoia è uno psicoanalista e sociologo di fama mondiale, è stato presidente di tutti gli psicoanalisti junghiani del mondo. In questo libro, Paranoia, la follia che fa la storia, racconta il Novecento, come nascono due guerre mondiali e racconta la paranoia come infezione, malattia collettiva che porta a due guerre distruttive e che porta anche a disastri, non solo nelle dittature, come è più semplice da capire, come Hitler, Stalin, ma anche nelle democrazie. Per cui esiste una dinamica dell'individuare un nemico nel trovare un capro espiatorio per evitare di affrontare davvero i problemi che esistono. Diciamo che con questa lezione inauguriamo la scuola perché anche l'inconscio collettivo è fondamentale per capire la società e la politica. Non basta solo l'economia, occorre anche sondare le profondità dell'animo umano, non solo come persona, ma anche come collettivo.